9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e ogni tanto la mia redazione dice: ma caro Oscar Gatto, non puoi mica tutte le volte sempre con i tuoi temi pesanti, l'Europa, l'economia. Ogni tanto consenti a chi è in ascolto di ricordarsi che siamo in agosto, stiamo andando a fare agosto. Certo, c'è chi lavora ma non ha molta più voglia, perché o le ha già fatte ed è nostalgico oppure sta partendo, e poi c'è tanta gente in vacanza, quindi ogni tanto un tema leggero. Vabbè, io oggi piazzo questo. C'è una multinazionale svizzera, la Richemont, che dice: tra i miei dipendenti chi amoreggia, fa flirt, io lo licenzio. E vi chiedo, ha ragione o ha torto? Nella mia esperienza, chi fa sesso o amore in ufficio si imbarca in un mare di guai. Però questa è la mia personalissima opinione. Sentiremo esperti per capire se la produttività si alza o si abbassa, per così dire, quando si flirta in ufficio, e se il mondo del rigore oramai viene ampiamente trasgredito da chi cerca mogli, mariti, amanti e altro per movimentare gli agosti, e non solo gli agosti. A tra poco, linea giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio della settimana centrale che porta verso Ferragosto, mitica festa sempre troppo idolatrata, e per quello che mi riguarda nel nostro paese troppo idolatrata, perché io sono di quei matti che pensano che un problema fondamentale nel nostro paese è la produttività e il fatto che dovremmo tutti lavorare di più. E ricordarvelo ora che molti di voi sono in vacanza, sono appena tornati o si accingono comunque a partire o sono in viaggio, certo non è un grande campanello. Ed è per questo che i miei collaboratori mi dicono: e piantala lì ogni tanto, fai capire di essere una persona normale che si occupano solo di numeri, produttività, di accordi politici internazionali e italiani. E ammesso e non concesso che sia giusto il fatto che ogni tanto bisogna cedere alle lusinghe di problemi più lievi, allora li ho assecondati oggi e ho detto: va bene, allora occupiamoci di un tema più lieve. Per quello che mi riguarda, il tema più lieve ha sempre a che vedere con una cosa che lieve non è, cioè i problemi e le affascinanti trasformazioni che avvengono nelle questioni di genere, cioè nei rapporti tra uomini e donne, nei rapporti tra uomini e uomini, donne e donne, quando ci sono i sentimenti di mezzo, quando c'è magari il sesso di mezzo, perché insomma il nostro è un paese un po' particolare, ha una storia particolare e ha delle ipocrisie particolari. E dovessi scegliere oggi sui giornali italiani il tema che della mia natura su questo avrebbe assecondato di più, un classico tema che sembra leggero ma non lo è per niente, avrei scelto pagina 21 del Corriere della Sera, con un bel titolo che dice: la busta paga delle donne, punto interrogativo, stipendio più basso del 21%, guadagnano 1221 euro rispetto ai 1553 degli uomini. E avrei detto: vergogniamoci, perché questo è un paese in cui continuiamo a dire che c'è la parità, e la parità c'è solo nelle sentenze di Cassazione che riguardano la prole quando ci si separa. Ma invece noi non avevamo scelto questo tema, ne abbiamo scelto uno che apparentemente è più leggero di questo e che investe l'universo dei sentimenti, traendo spunto da una notizia che era uscita la settimana scorsa. Ha sempre a che vedere con gli ambiti di lavoro ed ha sempre a che vedere con i problemi di genere. Non è detto che abbia per forza a che vedere con le questioni di rapporti eterosessuali, però ha a che vedere con il sesso e i sentimenti. Perché? Perché la scorsa settimana è uscita la notizia di una multinazionale svizzera che si occupa di lusso, tra virgolette, ed è quindi una multinazionale che può contare sul fatto che il segmento alto dei consumi della ripresa è in fortissimo andamento positivo, perché ha una prospettiva di fronte a sé di anni in cui in Asia il numero dei, tra virgolette, ricchi che comprano orologi sopra i 50.000 euro, che fanno vacanze e chiedono servizi turistici di grandissimo livello, è in vertiginoso aumento. E questa multinazionale però si è un po' scocciata, si chiama Richemont, si è un po' scocciata di constatare che la produttività nelle sue sedi di lavoro si abbassava, aveva delle preoccupanti picchi negativi perché dei dipendenti amoreggiavano tra loro. E allora ha emanato una bella circolare e ha detto: cari i dipendenti della Richemont, se voi continuate prendete in considerazione l'idea che noi possiamo, e stiamo parlando di un'azienda svizzera, prendere una bella decisione, quella di mettervi alla porta, perché voi non state qua per amoreggiare, bensì per lavorare. Allora, questa notizia è rimbalzata ovviamente su tutti i giornali, di fronte all'idea che è vietato innamorarsi in ufficio, sia, consideriamo alcuni degli aspetti di cui parleremo oggi, cercando di parlarne seriamente e anche un po' meno seriamente, ma seriamente la questione è: rientra nelle facoltà di un'azienda assumere interventi di questo tipo? Naturalmente in questo caso dipende dalle specifiche caratteristiche dei contratti e quindi dai diversi ordinamenti nazionali in materia di diritto del lavoro. Prima questione. Seconda questione, ma la produttività nelle aziende aumenta o, come invece pensano alla Richmond, diminuisce quando i dipendenti intrattengono anche tra loro rapporti umani? Nei rapporti umani c'è anche la possibilità che si vada nel sentimento, nel sesso, eccetera, eccetera, che rendano più caloroso e interessante ai loro occhi il posto di lavoro. Terza questione, ma è poi in definitiva, e qui veniamo invece alle vostre e alle nostre abitudini di italiani, nella nostra esperienza e nella vostra esperienza, la pratica di avere storielle, tradimenti, innamoramenti, storie vere e magari anche tanti matrimoni che nascono perché ci si conosce sul posto di lavoro e magari anche tradimenti ed esplosioni di matrimoni che si verificano sul posto di lavoro. È un'esperienza da considerare ordinaria, perché così è la vita, siamo fatti di carne, siamo imperfetti, siamo dei bipedi solo sedicenti, intelligenti, ma in realtà siamo poi inevitabilmente portato dalle regioni del cuore, dalla parte bassa anche della cintola, oltre che il cuore. Oppure invece nella media l'esperienza è che è sempre un problema aggiuntivo, con le diverse gradazioni del problema che può anche poi diventare problema molto serio se al lavoro si affianca invece il sesso, il tradimento, l'innamoramento e l'amore. Ecco, questo è un bell'interrogativo finale sul quale naturalmente vi chiedo con leggerezza ma con attenzione anche ai due problemi numero uno e numero due, quello del diritto del lavoro e quello della produttività, di raccontarci le vostre esperienze con tono lieve, se lo considerate, o anche con tono serio, perché ovviamente l'amore e il sesso fanno parte inseparabile della vita di ognuno di noi. E quindi chiamate l'800 24 00 24. Io dico solo che la mia modesta esperienza, non posso che in questo caso parlare a titolo personale, si divide in due grandi capitoli. Primo, è vero, io ho visto nella mia oramai più che trentennale esperienza di lavoro nascere sui posti di lavoro bellissime anche storie d'amore, bellissimi matrimoni, che nella media c'è chi regge, chi non regge, ma insomma storie vere, storie importanti, e quindi non potrei essere così matto da dire che sui posti di lavoro non bisogna innamorarsi, non bisogna anche immaginare alla carne. Detto questo, però, ho constatato molte volte che sui posti di lavoro chi, tra virgolette, si lascia andare, e si lascia andare magari con intenti un po' meno seri, e guarda le colleghe o guarda i colleghi con l'occhio rapace di chi dice: ne approfitto perché tanto qui avrò delle scuse col mio compagno o la mia compagna e sarà più facile praticare tradimenti, di solito si espone a percentuali di problemi ancora più dannatamente elevate di quanto non avvenga quando si tradisce nella vita ordinaria, perché è così, perché si diventa poi esposti all'inevitabile commento e ricatto di un ambiente al quale, come ovvio, si tiene molto, quello del proprio posto di lavoro, perché la fama e la reputazione, anzi, sul proprio posto di lavoro è una da considerare una integrante pienamente della definizione delle proprie caratteristiche positive o negative di un CV, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lunga onda e scia poi di vendette sui posti di lavoro, di carriere rovinate, di amministratori delegati che vengono cacciati perché credono che di vivere normali rapporti di interesse sessuale del proprio dipendente e in realtà poi fanno di questo una leva per promozioni o espulsioni del tutto vergognose. Io ne ho assistito a molti di questi casi e credo, fine della mia introduzione, che bisogna distinguere, perché ve lo dico con grande serietà. Oggi parliamo dei flirt, degli innamoramenti e del sesso alla dipendente, ma attenzione, perché la mia esperienza in oltre 30 anni di lavoro nella realtà italiana è che in tutte le aziende dove io ho lavorato, quasi, diciamo che ovviamente in questo caso devo dire con l'eccezione di quella di cui sto parlando, come è ovvio perché in questo momento collaboro con lei, ma in tutte le precedenti, senza eccezione alcuna, io ho visto praticare dai capi interesse sessuale verso le dipendenti del tutto improprio e promozioni ed espulsioni di contratti a tempo determinato che dipendevano anche da questo, e questa io la considero una prassi vergognosa. del nostro paese, molto ipocritamente negata e del tutto apertamente praticata, che la dice lunga sui maschi che comandano, i media, con tutte le eccezioni. Ma oggi parliamo dei flirt. Dopo questa lunga introduzione che ha tentato di ricordarvi che ci sono aspetti seri e ci sono aspetti che invece riguardano il costume, la vitalità che è legata al sesso e l'amore, vi presento i nostri ospiti di oggi, che ne sanno sicuramente molto più di me dell'argomento. E iniziamo innanzitutto con Annalena Benini, che è giornalista del Foglio, di Panorama, ed è una straordinaria e talentuosa, secondo me, osservatrice del costume italiano, con una vena apparentemente lieve e ironica e in realtà poi con un occhio molto tagliente e molto più intriso di cultura e di un giudizio che non affiora mai esplicitamente sui difetti del costume morale del nostro paese. Buongiorno e grazie, buongiorno. Annalena Benini. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. E abbiamo poi Claudio Risè, non avrebbe bisogno di presentazioni, come si suol dire, ma insomma uno psicoterapeuta, editorialista del giornale, che della sua evoluzione e della sua pratica scientifica ha fatto anche, ed è un grande merito quando avviene, un osservatorio molto approfondito e molto evoluto nel tempo su come cambia il costume e la mentalità degli italiani. Buongiorno Risè. Buongiorno, grazie. Allora Annalena, io ti chiedo di iniziare con un po' di lievità ma tagliente. Tu li difendi i flirt in ufficio? Io difendo i flirt in ufficio, anche perché il mio matrimonio è iniziato con un flirt in ufficio e quindi posso, insomma, garantire che spesso le cose vanno bene e nascono delle vere storie d'amore. Li difendo perché, diciamo, Annalena, ti interrompo solo per dire che io non l'avrei mai detto, però io devo dire che ti ho scelto anche perché sono testimone del fatto che è vero quello che stai dicendo. Lo dico a chi è in ascolto, vi posso garantire, perché lavoravamo insieme, e Annalena in questo momento non è che sta ipocritamente difendendo. Nascono storie vere e matrimoni veri con figli straordinari e ci si vuole bene, quindi io l'ho scelta anche per questo, anche se non l'avrei mai detto. Sono onesto, vai avanti. E soprattutto penso che la nostra vita lavorativa molto spesso è totalizzante e quindi è la nostra vita ed è inevitabile che nella nostra vita prendano il sopravvento a volte il flirt, l'innamoramento, l'amore, il tradimento. Non possiamo eliminare dalla nostra, dal nostro orario d'ufficio, che molto spesso è lungo e è snervante, anche queste cose. Naturalmente è necessario saperle gestire, come tutte le cose della vita. Come le gestiamo fuori dall'ufficio, così dobbiamo essere in grado di gestirle in ufficio e evitare quindi comportamenti ridicoli, rabbie diciamo, soprattutto dobbiamo essere in grado di lavorare come abbiamo sempre fatto, decentemente. A volte mi è capitato di osservare che il fatto di avere un innamoramento anche temporaneo per un collega d'ufficio aumenta invece la produttività, perché il lunedì non diventa più un incubo ma diventa un'occasione per essere contenti e felici di andare a lavorare. Spesso scattano anche dei meccanismi di sana competizione o comunque di sana voglia di dimostrare che anche al proprio, diciamo, innamorato, che si vale qualcosa, che si vale molto. Si va in ufficio, diciamo, vestiti meglio, si lavora meglio, c'è quell'energia in più che è data spesso dai sentimenti o quelli che crediamo tali in quel momento, certo. Allora, e se uno va a vedere i sondaggi che abbiamo raccolto più recentemente, diciamo gli ultimi paio d'anni usciti sulla stampa italiana e internazionale su questo argomento, troviamo che, a mio giudizio almeno, gli italiani sono un pochino più ipocritelli degli altri, perché mentre per esempio New York Times 2 anni fa, New York Times tra l'altro ha licenziato talora dei propri giornalisti perché avevano l'abitudine, l'ultima volta fu una ex corrispondente storica da Baghdad 2 anni fa che fu licenziata perché aveva questa cattiva abitudine di servirsi delle rivelazioni, dei tradimenti in redazione per fare carriera, e poi a un certo certo punto ricattò un capo con cui aveva avuto una storia, dicendogli che altrimenti avrebbe detto con chi altri, e in quel caso l'azienda l'ha messa alla porta. Come negli Stati Uniti, per esempio, oltre il 40% dei dipendenti in uffici, banche, giornali, cioè stiamo parlando del segmento elevato, non stiamo parlando, era un sondaggio non fatto tra gli operai, per essere chiari, oltre il 40% dichiara abitualmente di aver avuto, di avere in corso o di progettare di avere flirt e storie di sesso in ufficio. Da noi invece, nella media, questa percentuale sale ulteriormente nel nord Europa, va fino a verso il 60% nei paesi scandinavi. Da noi, in Italia e in Spagna, pare che invece nei sondaggi gli italiani e gli spagnoli siano molto più prudenti nel dichiarare che sia così anche per loro. Vi lascio un interrogativo se tutto questo deponga a favore veramente del fatto che da noi la percentuale sia più bassa, o se abbiamo semplicemente una qualche maggior ritrosia barra ipocrisia sull'argomento, perché a me non pare proprio che la percentuale sia così bassa. Però chiedo a Risè. D'altra parte, un divieto come quello della Richmond forse ha anche un aspetto positivo. Io trovo molto interessante questo divieto, perché valorizza in un certo senso l'amore, l'esperienza dell'amore e dell'innamoramento, perché gli dà in qualche modo importanza, ne rivela il lato pericoloso dal punto di vista dell'azienda, cioè tendenza a fare delle cose fuori posto, sottrarsi alle regole, eccetera, eccetera. Ma in questo modo restituisce dignità e interesse all'amore, perché le cose che non presentano nessun pericolo non hanno neppure nessun interesse, alla fine neppure per chi le fa. E quindi, a mio modo di vedere, diventa una sottolineatura di quello che diceva prima va Benini, cioè va benissimo l'amore in ufficio, purché si sappia gestirlo. Infatti questo ordine di servizio, per quanto non ho potuto vedere, non dice di non farlo, dice quando c'è qualcosa di parlarne con i superiori, che naturalmente è un modo, come dire, molto autoritario, molto gerarchico, tipico delle aziende, delle multinazionali, di affrontare il tema, ma è anche un modo di dire questo tema è molto importante. Vi ricordo che quando Risè dice e Annalena Benini dicono che bisogna stare attenti, per così dire, le regole non sono quelle aziendali, ma le regole sono quelle anche poi del diritto vigente, perché noi abbiamo un diritto un po' complicato in materia, per esempio, di tradimenti. Apparentemente basta il buon senso, il buon senso spesso non si rivela in grado poi di orientare il comportamento quotidiano, quando poi, diciamo, gli ormoni, le ire fanno un po' deragliare il controllo di sé. E io vi ricordo che le sentenze in materia della Cassazione sono, per esempio, abbastanza singolari, perché ci sono sentenze, la Cassazione, ripeto, è molto univoca quando si tratta di tutelare la prole a vantaggio del coniuge di sesso femminile nella coppia, perché questa è la maniera in cui il nostro ordinamento riequilibra storicamente quello che è avvenuto nei millenni precedenti a favore del coniuge maschile. Ma in materia di sesso tradimenti ha una giurisprudenza abbastanza variegata, che si apre in una forbice di sentenze tipo, cioè una sentenza che ha stabilito che la moglie adultera il coniuge maschile, e perché in quel caso di quello si trattava, la poteva svergognare, cioè poteva in pubblico rivelare delle cose che la ricorrente aveva considerato diffamatorie, e invece la Cassazione ha dato ragione al marito. In un altro caso, un'impugnativa di un'assoluzione analoga di una diffamazione di moglie da parte di un coniuge maschile, che rivelava appunto i tradimenti in ufficio a cui era stato sottoposto, anche in quel caso il coniuge di sesso maschile è stato assolto. Però quando si va sui soldi, attenzione, la Cassazione dice la moglie fa le corna al marito, lui deve essere solidale, ci sono innumerevoli casi su questo. E naturalmente vi devo ricordare che vi sono anche numerose pronunce oramai confermate fino alla Cassazione in cui è un reato invece filmare, e tantomeno poi diffondere, ma anche solo filmare o fare fotografie di telefonini del vostro coniuge se vi tradisce in ufficio, è un reato. E costa ancora più caro poi, non solo per gli effetti delle violazioni del codice, ma nel caso della separazione. E quindi vi devo ricordare anche perché noi abbiamo poi delle tutele forti nel nostro ordinamento sulla inviolabilità dei segreti, a cominciare da quello di corrispondenza di qualunque tipo, non solo carta scritta ma anche online e così via, che spesso tutti nei rapporti di coppia tendono però, ed è umano, a dimenticare, perché la prima cosa che avviene è quella di andare ad accertarsi dei comportamenti sui messaggini, sulle cose eccetera eccetera. Allora, detto questo, Anna Elena Benini, ma le aziende che ci danno i computer su cui lavoriamo, o almeno li danno a chi è dipendente, nel mio caso no, perché io non voglio più avere padroni, ma comunque le aziende che danno i server, i computer su cui si lavora, dal tuo punto di vista è giusto che vadano anche a vedere che cosa poi uno fa per rispettare i propri colleghi o per vedere se ci sono storie o cose improprie, per esempio, oppure no? Io trovo che non sia giusto, trovo che non sia giusto entrare nelle vite degli altri anche a scopo di controllo professionale. Ritengo però che i colleghi che durante l'orario di lavoro si scambiano email infuocate o chattano eroticamente l'uno con l'altro dovrebbero avere l'accortezza di farlo magari dopo l'orario di lavoro, oppure di aprirsi una casella di posta personale che non sia la casella di posta che si dovrebbe usare per comunicazioni strettamente professionali. Ci vuole un minimo di correttezza da entrambe le parti. Si diverte nel movimentare la propria vita anche con un banale, non particolarmente amoroso flirt in ufficio, deve, ripeto, saperlo gestire con il rispetto dovuto alla propria azienda ai propri colleghi. Soprattutto deve comunque essere consapevole del fatto che potrà fare tutto quello che ritiene giusto per non far sapere nulla del proprio flirt agli altri colleghi, ma gli altri colleghi lo sapranno sempre, in ogni caso da subito. Non c'è comunità più rapida in effetti nel raccogliere anche solo un fremito e un battito di ciglia che quella di un posto di lavoro unito e solidale, un tempo nelle lotte sindacali, ora neanche più in quello, ma soprattutto unito nello scrutare qualunque vostro apparentemente più posto segreto per utilizzarlo ai vostri danni. Questa per esempio è la mia personalissima esperienza. Tanti anni fa, una sanguinosa vendetta ai miei danni, tutta la comunità dei miei amici e colleghi in giornale, da parte di una persona che giustamente ritenne che me la meritavo. Le opinioni sono divergenti, ma è amaro pagare quei prezzi, ve lo posso garantire. Ora pubblicità e poi ricominciamo con gli ascoltatori. 9 in punto, la versione di Oscar. Pubblicità rapidissima in tempo di agosto, immaginando che siate pochi in ascolto, cerchiamo di stupirli e quindi intanto qualche telefonata invece arriva. Cominciamo sentendo la vostra opinione su questo divieto di flirt in ufficio e minaccia di licenziamento dalla parte della multinazionale Richemont. Iniziamo a sentire l'opinione di Marco. Marco che ci chiama da Roma. Prego Marco. Buongiorno a tutti, io sono un dipendente che ha sposato la propria collega di lavoro e l'ho fatto lasciando emergere la relazione che avevamo, perché IKEA è una società che non solo non si pone problemi nei confronti dei dipendenti che hanno delle relazioni, ma è tranquillamente disposta a lasciarle emergere e a far sì che queste siano alla luce del sole dell'ambiente lavorativo. E la cosa non creò nessun problema. Cosa avete fatto? Avete prima aspettato di capire quanto era serio il vostro rapporto, poi a un certo punto l'avete... Esattamente, sì. Esattamente. Questo sia per rispetto nei confronti di noi stessi che per rispetto nei confronti dei colleghi di lavoro. Che essendo una società che lascia emergere questo tipo di situazioni, ovviamente, come un po' nella natura umana, si creano anche... dei gossip aziendali, no? Quindi a volte circolano un po' voci di relazione tra la tale e la tal altra persona, cose che sono sempre state prese con leggerezza, ovviamente se queste persone ben si comportavano nell'ambiente lavorativo. E quando fu il mio caso, io decisi innanzitutto di andarlo a dire all'amministratore delegato, non parliamo dell'amministratore delegato di IKEA, ma di IKEA Italia Distribution, perché io lavoravo in una delle società IKEA in Italia, quindi non parliamo dell'amministratore delegato di IKEA Retail, però insomma ovviamente un personaggio di spicco all'interno del management di IKEA, e ricordo che andai da lui e ti dissi: senti, vuoi che ti racconti in diretta l'ultimo gossip? Mi sono messo con XY, che poi è diventata mia moglie. E questo fu quanto, dopodiché non vi fu assolutamente nessun problema, mia moglie si spostò all'interno dell'universo IKEA per altre opportunità, io dopo un anno e mezzo lasciai IKEA, adesso sono un libero professionista, però ricordiamo un po' con simpatia quei momenti. Molto bene, quindi l'esperienza di Marco è un'esperienza buona, anzi ottima. IKEA naturalmente si ispira a un codice di comportamento, un codice etico, che è quello, diciamo, in Europa dei paesi scandinavi. Nei paesi, negli anni alle nostre spalle, su questo tema dei codici etici, i codici etici non, naturalmente, quando hanno a che vedere con i comportamenti etici tra dipendenti, e sono compresi anche gli aspetti della storia sentimentale, però c'è anche una questione molto delicata che finisce per essere compresa, perché nei rapporti che sfiorano, che investono il sesso, ricade direttamente la questione molto delicata delle molestie sessuali, e quelli sono un problema naturalmente serio, molto serio nelle aziende, almeno questa è la mia esperienza. E negli ultimi anni si è assistito a una specie di scontro nella giurisprudenza dei paesi maggiori europei, perché le aziende americane in questo sono, per tutto ciò che avviene negli Stati Uniti, lo leggiamo appunto ogni settimana, ci sono casi di grandi manager anche americani allontanati per molestie sessuali. La scorsa settimana è stato il caso dell'amministratore delegato di Hewlett Packard, che era succeduto a Carli Fiorina negli ultimi 4 anni con risultati strepitosi in azienda, ed è stato brutalmente messo alla porta perché aveva la cattiva abitudine di scambiare per flirt il fatto di richiedere e ottenere un po' con la forza prestazioni sessuali da parte non solo di dipendenti e di manager, ma anche di fornitori, ed è stato buttato fuori. Allora, il codice etico di grandi gruppi multinazionali americani come Walmart, come Ford, come General Motors, comprende sempre dei capitoli che riguardano anche questa delicata sfera del rapporti tra dipendenti e tra dipendenti e superiori, e il problema è che la delicatezza è quella di distinguere un flirt, un innamoramento, una storia, rispetto poi alla richiesta e le pressioni e le molestie. Però quello che è avvenuto è che un paese come in Germania, per esempio, negli ultimi anni ci sono numerosi casi di pronunce di magistratura tedesca contro i codici etici di gruppi multinazionali americani, classicamente Walmart, si cita sempre una condanna di Walmart di 4 anni fa, perché non tanto perché le norme a tutela delle dipendenti contro il sexual harassment fossero sbagliate, quanto perché i giudici tedeschi hanno quasi sempre imboccato la strada che sia sbagliato imporre ai dipendenti un codice di comportamento, cioè oltre alla produttività e oltre il rispetto del contratto di lavoro su turni, orari, ferie, permessi e quant'altro, la sfera del rapporto di lavoro non va inquadrata in un impegno etico individuale, tranne il caso, hanno detto i giudici tedeschi contro Walmart, in cui ovviamente vi siano esplicite violazioni, ma a quel punto basta il codice del codice, non di un codice interno aggiuntivo, anche perché il codice di Walmart aveva un articolo nel quale, per esempio, si parlava di un divieto di sguardi libidinosi, e il giudice di Wuppertal disse: voglio vedere chi è a sapere distinguere uno sguardo libidinoso da uno sguardo qualunque nei confronti di un avvenente collega. In effetti io ho esperienza intorno a me di sguardi molto accesi e non potrei dire che violano il codice, però rimane il fatto che quando ci si accorge di essere divorati da sguardi di quel tipo dei colleghi maschi, mi posso rendere conto che non sia un bel lavorare. Sentiamo ancora qualche altro ascoltatore. Io faccio sempre questi passaggi per indurre i maschi a ragionare, perché guardate che non è proprio così accettabile il fatto che noi non facciamo altro spesso che spogliare con gli occhi le nostre colleghe e le nostre amiche. Voi direte: ma parla per te, se lo dici così evidentemente lo fai. No, io spesso rido con i colleghi perché li becco, e lo sanno che in questo caso parlo per esperienza quotidiana, dicendo: ma insomma, guardate, sì, ma con un po' più di sorriso negli occhi invece che con queste specie di vaporiere che ci avete dietro le corna. Cristiano da Modena, che esperienza ha avuto, Cristiano? Ma io di esperienze, non, sinceramente non ne ho avuto, volevo intervenire in modo diverso. Sì. Francamente mettere regole, non mettere regole, sta tutto nella maturità di un dipendente, prima di tutto. Poi tutti siamo fatti di carne ed ossa, quindi io vivo dentro un contesto commerciale, in un ufficio di una grossa azienda, e chiaramente i flirt ci sono e si sanno e non si sanno, occhio non vede, cuore non vuole. Però diciamo che è molto importante sotto il profilo del rendimento, bisogna valutare se una storia all'interno della stessa azienda non va ad influire nel rendimento del singolo dipendente, allora tutto ok, anche con i messaggi, mail bollenti. L'importante è che il rendimento e i risultati vengano portati a casa. Cioè lei, Cristiano, dice in realtà noi dobbiamo riconoscere le aziende il diritto di valutare questo criterio, al punto tale che se poi bisogna separarli e fare lavoro in contesti diversi, l'azienda interviene e dice: sentite, anche se facciamo finta di non saperlo, cioè lo sappiamo tutti, vediamo che voi lavorate peggio, vi separiamo, vi mandiamo in reparti diversi, in stabilimenti diversi, in locazioni diverse, e quindi dice a quel punto l'azienda fa pienamente il suo mestiere. E questa è la sintesi, claro, del suo. E anche questo è un aspetto, secondo me, tutto alla radio di Confindustria saremmo sciocchi se non lo sottolineassimo. Naturalmente a quel punto il dipendente che vedesse dal capo del personale arrivargli una comunicazione orale di quel tipo potrebbe imbizzarrirsi e dire: ma come ti permetti di entrare nel mio vissuto? Però ecco la delicatezza di un punto come quello, perché non si può chiedere alle aziende di non essere aziende. Sentiamo Laura, un'ascoltatrice, Laura da Udine. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono stata datrice di lavoro insieme a mio marito, avevamo degli esercizi all'estero. Mio marito non voleva mai assumere ragazze e litigavamo, anche perché avevamo un lavoro che portavamo via dall'Italia, personale italiano, e quindi c'era anche bisogno della ragazza che stirava, che cuciva e così. Io ho sempre detto: io mi trovo delle ragazze serie, e praticamente l'ho vinta io. Ho trovato le ragazze serie, però io volevo dire questo, che se lo fanno con discrezione, che si innamorano, io ho lasciato fare, sì, basta avere pudore e rispetto, e penso che possa anche nascere una buona relazione, un matrimonio. Cioè non bisogna essere così rigidi, però naturalmente bisogna avere persone e persone. Questo è il mio parere, caro signor Giannino. Io la ringrazio molto. Devo dire che i nostri ascoltatori stanno mandando sms i più vari. Alcuni, per esempio, ci sottolineano l'importanza, più di uno. Quindi questo mi accende il cuore di speranza, perché trovare ben due messaggi che sottolineano l'importanza del film di Lars von Trier su questo, Il grande capo. Insomma, von Trier fa film non proprio di massa, però insomma a me piacciono molto. Il grande capo, per esempio, è vero, è un film che parla delle situazioni complicate che possono nascere da questo tipo di sentimenti sul posto di lavoro. I più mi dicono che io sto confondendo molto pericolosamente il fatto che il più dei matrimoni non nascono sui posti di lavoro, ma finiscono i matrimoni che ci sono, perché in realtà le relazioni sul posto di lavoro sono ispirate quasi sempre all'avventura, al portarsi a casa con minor sforzo una preda e così via, e quindi cose che sono tradimenti rispetto ai rapporti standard, e quindi sarebbe meglio evitarli anche per questo. E io questo non mica lo nascondo, anzi ne stiamo esplicitamente parlando. Sentiamo Renato da Roma come la pensa. Pronto? Dica, Renato. Buongiorno. Senta, io la penso che non è una questione di codice etico o meno, è una questione di codice di vita, nel senso che fino adesso abbiamo parlato di Ikea, di grandi aziende, o almeno mi è parso di sentire cose del genere. Io credo che i flirt, il collega più che altro è vissuto anche in situazioni, in piccole aziende dove sono 10 dipendenti, forse 20, diciamo anche 50. Là non si deve mettere insieme, là l'etica, tra virgolette, il buon senso dice che non ti ci devi mettere insieme. Perché? Perché se ti metti insieme, in quel caso tu sai benissimo che molto spesso va a finire la storia, e se finisce e poi ci devi ristare gomito a gomito tutti i giorni, quello secondo me è triste, quello quello non deve succedere. Mentre lei dice, in una grandissima azienda dove ci sono reparti diversificati eccetera eccetera, minore la possibilità di condividere e quindi di rendere anche più amaro attraverso la condivisione, è più problematico per l'azienda il faccia a faccia quotidiano, stare gomito a gomito. Nella grande azienda, è come in tutte le grandi organizzazioni, grandi posti, è meno rilevante il problema. È logico, nella grande azienda diciamo ancora è fattibile, ma più parliamo, mi appassa almeno che l'andazzo sia quello che poi ci si mette insieme, ma così per flirtare, abbiamo parlato di flirt, il flirt è destinato a finire, e se finisce poi dopo io ti devo guardare, se finisce tanto non finisce, come tutte le storie, solitamente finiscono perché o io o l'altra parte taglia. Diciamo, e quindi c'è l'altra parte che non è d'accordo, e quindi a quel punto intervengono delle dinamiche, per così dire. E capisco bene a che cosa si sta riferendo. E alcuni altri ascoltatori, un operaio in vacanza mi ricorda, pare che dai vostri interventi tutti lavorano solo negli uffici in Italia. Vi assicuro che in linea, nel reparto, non si ha molto tempo per coltivare i flirt e non si hanno computer a disposizione per scambiarsi messaggi. È vero anche questo, e quindi ricordiamolo. Sentiamo Stefano da Palestrina invece. Senta, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e a lei. Io credo che la questione non sia tanto adesso parlare di sentimenti e via discorrendo, credo che questa problematica stia insorgendo insieme ad altre problematiche e facciano parte di una specie di pressione psicologica che viene fatta dalle aziende sui propri dipendenti per diciamo incrementare al massimo la produttività, e questo non ci sarebbe niente di male. Il discorso è, se io nella mia azienda dovessi avere un atteggiamento sbagliato, ecco, che crea problemi, è giusto che l'azienda mi richiami, mi licenzi, ma se io, avendo anche un flirt oppure una relazione sentimentale più seria, perché non ci dimentichiamo che noi passiamo più della metà della nostra vita al lavoro, a proposito di produttività. E magari fosse solo la metà o poco più della metà, nel mio caso non è così. Modo danneggio l'azienda. Io tengo presente che in 30 e più anni di lavoro non ho mai avuto relazioni nell'azienda in cui lavoro, via discorrendo. Quindi ma se mi posso permettere, ha avuto, se è capitato qualche tentazione e lei ha rimosso e ha detto no, devo resistere perché in azienda è sbagliato, questo sta dicendo? Non perché in azienda è sbagliato, perché non ritenevo opportuno, insomma io lavoro in sala operatore, quindi capisco, forse è meglio evitare, ci terremmo come pazienti però voglio dire, se mi fosse capitata una situazione per me importante, non avrei rinunciato, cioè erano storie così, quindi ho lasciato perdere. Ma il discorso, quello che le volevo portare, è questa pressione che c'è comunque in questo momento storico da parte delle aziende sui dipendenti. Questa non è una cosa sana, perché lei sa benissimo che per ottenere una migliore produzione bisogna motivare in maniera positiva i dipendenti, non reprimerli. Comunque, fermo restando, io sono d'accordo che comportamenti disdicevoli, eccetera, eccetera, vanno ovviamente repressi, ma avere questa specie di controllo continuo, questa continua applicazione della privacy. Lei che ne pensa invece dei dirigenti che hanno, dei grandi dirigenti che hanno storie in continuazione con le loro segretarie? Quelli non li controlla nessuno, per esempio. Quelli non solo non li controlla nessuno, ma come avrà capito, io sono molto critico rispetto a chi, esercitando il potere, lo esercita attraverso. Perché ho detto che mi è capitato in tutti i posti di dover constatare che questa prassi, che io considero vergognosa. Ho anche litigato in due posti di lavoro facendo riferimento esplicitamente a cose che capi o miei co-capi facevano su questa materia, anche recentemente è capitato, quindi non solo posso dirle che la penso così e che mi fa abbastanza schifo, perché di solito sono sempre i maschi ovviamente che si comportano così, ma la considero un'articolazione della sedimentazione del potere nell'idea di molti maschi, talora insospettabili, ed è una cosa secondo me abbastanza rivoltante. Sentiamo l'esperienza di Claudio da Savona. Buongiorno, dottor Giannino. Io vorrei raccontare un piccolo episodio che rappresenta forse un po' l'altra faccia della medaglia. Anni fa lavoravo come agente per una compagnia assicuratrice qui a Savona Quando è arrivato il nuovo agente generale c'erano già un venditore e una segretaria che erano fidanzati da anni, notoriamente, eccetera. Il venditore a un certo punto ha lasciato la nostra compagnia per passare a una compagnia concorrente e con neanche tanto sotterfugio, perché la segretaria era un pochino ingenua, l'agente generale ha fatto trovare alla segretaria una lettera di dimissioni pronta che lei ingenuamente ha firmato, perché a suo dire lei avrebbe potuto passare chissà quali segreti aziendali al fidanzato che lavorava per la concorrenza, e quindi di fatto, essendo fidanzata di un collega, l'ha licenziata. E poi hanno anche, diciamo, diffidato noi da rivolgere la parola a queste due persone se l'avessimo incontrate per strada, se no avremmo rischiato anche noi di perdere il posto di lavoro. Questo è un consiglio che nessuno poi ha seguito, ma di fatto la minaccia c'è stata. E queste storie avvengono, allora non hanno a che vedere direttamente ovviamente col protocollo della Richmond che ha detto vi possiamo licenziare con offerta, ma attenzione che queste prassi secondo me sono molto diffuse invece, quelle descritte da Claudio. Naturalmente un sorriso anche ai dipendenti di un mangimificio che mi dicono qui siamo tutti uomini e alla scelta della puntata di oggi ci siamo tutti guardati negli occhi e messi a ridere, e del resto siete al riparo, non so quanto, perché poi magari però siete al riparo da questa tentazione e quindi la cosa non vi riguarda. Bisognerebbe sapere se questo è un incremento alla vostra produttività oppure no. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, la domanda che a questo punto faccio a Claudio Risedo, può aver visto quanto ampia, ma era inevitabile che fosse così, l'esperienza che viene dall'ascolto di chi ha poi in Italia sul lavoro verificato e toccato con mano. La sua esperienza, se posso chiedergli, diretta negli ambienti, all'università, come, è di un'evoluzione da questo punto di vista dei costumi e dei problemi rivelati poi nella testa, nella psicoterapia degli italiani, che testimonia che cosa? Che abbiamo un assestamento verso comportamenti più sereni o che tendiamo ad avere, diciamo, il libertinaggio, il flirt, quindi sto parlando delle passioni al di fuori dei rapporti, nei rapporti consolidati, come una manifestazione che negli ultimi 15 anni, 20 anni è diventato un allineamento dell'Italia al comportamento di paesi più avanzati, ma come sempre avviene quando ci si arriva tardi lo si fa anche male, quindi con minor serenità e minor capacità di viverlo nel rapporto tradizionale che insomma improntava invece la vita italiana, o invece sono tutte finte interpretazioni? Siamo un paese come da questo punto di vista nei costumi dei rapporti di genere e sessuali del tutto allineati secondo lei alla tendenza dei maggiori paesi avanzati, e quindi non è che abbiamo un'anomalia per la specificità della nostra storia o del patrimonio di valori anche religiosi che per secoli hanno ispirato i costumi prevalenti nell'etica e nella codificazione dei diritti dell'etica sessuale del nostro paese? Quanto siamo anomali in questo, Risè? Ma guardi, io ho l'impressione che c'è una tendenza di fondo che porta al riconoscimento di questi problemi e quindi anche della sensatezza di questi aspetti di controllo etico, come diceva Benini, la gestione dei propri sentimenti, dell'espressione dei propri sentimenti, che poi è quello che si traduce nelle aziende americane in questi famosi codici etici che a volte sono più stupidi, a volte meno, però portano a casi come questo recente che ha citato anche lei, del capo supremo di Hewlett Packard, che viene cacciato per molestie e comportamenti disdicevoli. Anche perché, insomma, qui dietro c'è una questione profonda, quella della fedeltà. Chi non è fedele ai propri affetti, ai propri impegni, agli impegni che ha preso eventualmente nei confronti dei propri partner, a casa, eccetera, molto spesso non è fedele neppure all'azienda. E quindi l'azienda lo punisce. Allora, da un punto di vista, diciamo, la tendenza di fondo va lì, e è anche una tendenza, a mio avviso, in cui l'etica cattolica italiana non è così diversa dall'etica protestante. La società industriale è nata anche su questo, sul valore, sul riconoscimento del valore di queste fedeltà, di questi impegni. Dall'altra parte invece ci sono certamente delle zone in diverse classi di età libertinaggio e in qualche modo violenza più o meno esplicita. Devo dire anche in questo piccola nota di differenza da quello che ha detto lei, che io ho visto anche dei casi di molestie, di pressioni molto forti nel mio lavoro di psicoterapeuta, mi viene riferito di casi di dirigenti donne che non sono propriamente corrette nei confronti dei propri sottoposti, non nel senso di tempeste ormonali scatenate e dimostrate, ma nel senso di tradurre però le proprie richieste sentimentali in precisi comportamenti aziendali di promozione o di repressione. Quindi ecco, ci sono delle zone di disordine che naturalmente si sviluppano, ma questo fa parte, credo, della dinamica normale di una società vitale dove anche i batteri hanno il loro posto e forse servono, alla fine servono anche a qualcosa, come per esempio a far uscire un documento così francamente esplicito e quindi con aspetti reazionari ma anche con aspetti fortemente concreti e veritieri come questo del Richemont. Ora abbiamo preso al volo, ci abbiamo provato e siamo riusciti a fare un collegamento telefonico con Carlo Rossella, che è fuori Italia, e al direttore, che è un direttore testimone anche qui da molti anni dell'evoluzione del costume italiano, ma è anche poi un attento osservatore della codificazione delle buone maniere, che in Italia non sono spesso associate alla vita quotidiana di ciascuno di noi. Chiedo, ma lei cosa ne pensa, nella sua esperienza, Rossella, di un'azienda come la Richemont associata all'idea del lusso, quindi insomma anche delle buone maniere, anche se i molti denari non è detto che vadano sempre d'accordo con le buone maniere, che dice ai suoi dipendenti: attenzione, perché se amoreggiate o flirtate io mi riservo il diritto di buttarvi fuori. È una cosa positiva, ci induce a comportamenti etici calvinisti, o è un'indebita intromissione nella sua esperienza e nella sua e anche per questa sua attitudine di osservatore, Rossella? Ma secondo me è una cosa un po' che si introduce nella privacy dei dipendenti. Io considero gli amori aziendali una grossissima scocciatura, anche perché uno ha il grande privilegio di non essere a casa sempre con la moglie, va in ufficio, che si fa l'amante in ufficio, così ogni volta la incrocia, la vede, la macchinetta del caffè, eccetera. Lei pensi che attorno alle grandi aziende, l'Interland milanese, hanno costruito i motel per permettere ai dipendenti di andare a scopare il pomeriggio quando escono dal lavoro. Io trovo una cosa ossessiva quella degli amori in ufficio, degli amori aziendali, mi fanno ridere. E quindi non condivido la cosa della Richemont, però poteva essere un avvertimento, poteva essere un consiglio, una moral suasion e non una un'imposizione, mi sembra eccessiva, ecco. Io devo dire che penso che Rossella ci abbia consentito di introdurre questo ulteriore elemento, lo ha fatto con leggerezza, che giro immediatamente, io ringrazio innanzitutto Rossella perché è stato breve ma illuminante, quindi abbiamo rubato questi minuti, ma ci è servito perché ci ha fatto pensare con lievità ma anche con autocritica non personale, ma io lo prendo con una questione di genere maschile ancora una volta, a quanto siamo ossessi noi da questa roba del sesso, della cosa eccetera eccetera, oltre al fatto che secondo me ha anche ragione a dire: ma già uno c'ha i rapporti di anni, poi si deve codificare anche nel posto di lavoro, è finita, ecco. Ma al di là di questo, Annalena Benini, siamo un pochino ossessionati o sono ossessionati tutti nel mondo? Cioè l'italiano vitellone che da Vitaliano Brancati, un classico della letteratura e dell'immaginazione onirica degli italiani maschi, sono meno vitelloni di un tempo secondo te, oppure sono peggio ossessionati dalle nuove tecnologie e ci hanno sempre l'occhietto sulle parti erotiche, questi maschi come li hai conosciuti e visti? Sei giovanissima, per carità, però un pochino di esperienza ce l'hai. Sono ossessionati o no? Ha ragione Rossella? Ma io sinceramente li trovo molto poco ossessionati, questi nuovi uomini, li trovo molto concentrati su di sé, sulla carriera, sul nuovo modello di iPhone. Non li trovo particolarmente invece così attenti all'universo femminile. Poi certo, siamo italiani, quindi siamo gaudenti e soprattutto, per tornare alle cose che diceva Rossella, amiamo rotolarsi nel senso di colpa. Quindi non c'è niente di meglio di avere appunto la moglie a casa da cui tornare, da cui farci fare mille domande, mille recriminazioni, e l'amante in ufficio da gestire faticosamente perché si lamenta che non andiamo a cena con lei il sabato sera. Il senso di colpa è una cosa che ci complica la vita, ma che ce la fa anche, ma che ce la illumina, che ci dà un po' quel brivido di avventura, e quindi riscalda certe grigie giornate in ufficio. Ecco, riscaldare le grigie giornate mi sembra una cosa tutto sommato positiva. Detta così, Annalena è capace di dare un colpo di pittura a questa situazione che spesso ha degli aspetti, lo vedono i messaggi però che arrivano dagli ascoltatori, si è scatenata una ridda di cose, di esperienze, che dice un rapporto con chi è diventata mia moglie sul posto di lavoro, dopodiché io mi sono licenziato, immediatamente hanno licenziato anche lei, quindi storie insomma che hanno comportato anche problemi molto seri. Mi permetto solo di dire che quando abbiamo osservato nei commenti di Annalena Benini e di Claudio Risè, che poi in definitiva chi non è molto fedele non è fedele non solo all'azienda, ma non è fedele in quasi tutto quello che fa nella vita, io questo credo di dover testimoniare che è così, e bisogna ricordarlo a se stessi quando l'idea non del tradimento in quanto tale, ma l'idea del tenere i piedi in troppe scarpe. Questo è un paese che tiene i piedi in troppe scarpe a tutti i livelli, dalla politica alle imprese, alle aziende, ai rapporti sindacali, ai rapporti personali, e forse è dalla persona che bisogna ripartire, perché un po' di univocità, di trasparenza e di disponibilità a pagare prezzi dipenda poi e divenga una caratteristica delle nostre scelte quotidiane, interpersonali, dipende da se stessi. Conclusione della giornata, no ai protocolli che vietano i flirt, ma tutti state attenti e non confondeteli con le molestie. Grazie a regia Roberto Scaltritti, grazie a redazione Alessandro Marcutulli, grazie a Claudio Risea, Nella Benini, Carlo Rossella, l'appuntamento a domani, linea al giornale radio. Radio 24. La passione si sente.